Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo anche noi del risultato delle elezioni amministrative, chiaramente tutte le grandi città rinviate al ballottaggio, ma lo faremo con il taglio che si addice a questo programma e che è anche tipico del Sole 24 Ore, che oggi, per chi non l'avesse visto, a pagina 5 riporta già le sfide. Chiunque sarà il nuovo sindaco, soprattutto nelle grandi città, le sfide economiche, le entrate proprie di pertinenza dei comuni sono ai minimi degli ultimi anni, e poi la necessità complessiva di una definizione più chiara delle entrate di cui possono disporre i comuni anche per la pianificazione di bilancio e finanziaria. Di questo parleremo, dicevo, parleremo anche delle stime di Banca d'Italia, ma anche delle sfide che arrivano dal mondo degli imprenditori e di una vicenda che può sembrare calcistica, lo è sicuramente per i tifosi dell'Inter, ma ha un carattere prevalentemente economico. Mi riferisco alla via libera, quindi alla chiusura della trattativa nel fine settimana per quello che riguarda l'Inter, che ha un proprietario cinese. L'operazione vale 270 milioni di euro. Il Suning Holdings Group ha infatti acquisito il 68,5% da chi? Da Toir, a cui resta il 31% la carica di presidente, e Moratti esce definitivamente dal club, dall'Inter, ha ceduto tutto il suo 29,5% che ancora aveva. Cosa fa Suning? Qualcuno l'ha detta assomiglia alle nostre grandi catene un po' più grande le nostre grandi catene di elettrodomestici, perché fattura quasi oltre 18 miliardi di euro e ha 1.700 negozi tra Cina, Giappone e Hong Kong, oltre 13.000 dipendenti, controlla praticamente un quinto del mercato cinese dei prodotti elettronici, però ha una strategia molto chiara di sviluppo anche quello che è il calcio, non solo per comprare l'Inter ma per i diritti televisivi e tutto ciò che ruota attorno all'obiettivo di portare il calcio in maniera molto forte anche in Cina. Ne parleremo più avanti. 349-238-6666 come sempre il numero per SMS e WhatsApp. La borsa oggi si muove bene. Milano più 0,65%, meglio di Parigi più 0,20%, Francoforte più 0,30%, Londra più 1,30%, il Dow Jones più 0,60%, l'euro su dollaro quota 1,13. Per quello che riguarda poi i singoli titoli, segnalo da questo punto di vista che perde più della media di mercato un titolo come Leonardo Finanziaria, che cede il 2,86%, Unicredit di nuovo in pressione con un calo del sostanzialmente 2,35%, Mediobanca cede a questo punto l'1,50%, UbiBanca -1,5%, Pop Emilia Romagna -1%, e chiudiamo con chi perde, Anima Holding, lo 0,70%. Parleremo anche di Brexit, anzi facciamolo subito con i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, perché oggi ci sono due notizie che riguardano il referendum che la Gran Bretagna andrà a votare il prossimo 23 giugno, uno dove è tornato in testa, anzi era mesi che non capitava, i sì, cioè i favorevoli all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, scusatemi, al 51% a favore della Brexit, prima volta da un mese che torna a salire il numero, diventa maggioritario il numero di chi è favorevole a uscire dall'Unione Europea. Il Premier David Cameron ha detto che è una bomba, la Brexit è come una bomba sotto la nostra economia, è tornato a attaccare molto duramente i favorevoli all'uscita. Sarebbe subito dopo il referendum, se vincessero i sì, ci sarebbe la recessione, e nel frattempo anche la Banca d'Inghilterra, the Bank of England, ha preparato un fondo di emergenza dove sostanzialmente potranno attingere, dovessero vincere i sì, le banche britanniche avessero problemi di flussi di liquidità che escono e avessero bisogno di reperire liquidità. Su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Praterotti. Ma conta più la politica o l'andamento dell'economia? È la domanda che si fanno tutti alla vigilia del nuovo intervento della Federal Reserve sulle prospettive dei tassi di interesse. Più che le incertezze sul mercato del lavoro, l'inflazione o la ripresa del PIL, quello che sembra frenare sempre di più le banche centrali, e in particolare quella americana, sono incognite di carattere politico che pesano non soltanto sugli Stati Uniti, dove poi a fine anno si voterà Trump, Clinton o chi sarà, ma soprattutto anche in Europa. E non parliamo soltanto di Brexit, ovvero il referendum inglese di fine mese in cui si deciderà se la Gran Bretagna resterà insieme all'Unione Europea, ma in generale un po' tutto il panorama delle elezioni tra politiche e amministrative che sono un po' in giro per il mondo. Si teme infatti ripercussioni, destabilizzazioni, scossoni allo squadro politico e soprattutto ripercussioni dei mercati finanziari a un'eventuale uscita della Gran Bretagna. Certo è, alla vigilia di appuntamenti importanti, una considerazione si può fare. Più si parla di danni all'economia inglese e all'economia europea per effetto di Brexit, più sembrano salire i polls, ovvero le previsioni di una vittoria dell'uscita della Gran Bretagna. Come dire, più che spaventare è ora di spiegare alla gente dove va l'Europa, perché ci va e con chi ci andrà insieme. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E allora, come sempre in questa prima parte, le notizie in breve. Non è una gran giornata oggi per il governo, e mi riferisco chiaramente alla delusione, soprattutto immagino su Torino, oltre che diciamo, il pareggio di fatto a Milano e la grossa affermazione dei 5 Stelle a Roma. Ma non è un buon giorno anche perché la Banca d'Italia oggi ha rivisto al ribasso tutte le prospettive di crescita per il 2016 e per il 2017, quindi quest'anno non oltre l'1,1% il PIL, che potrebbe andare all'1,2% nel 2017. Ricordo che solo a gennaio, quindi 4 mesi fa, la Banca d'Italia stimava una crescita quest'anno dell'1,5%, l'anno prossimo praticamente identica, 1,5-1,6%. E cos'è che pesa? Pesa il rallentamento dell'economia mondiale, sottolinea la Banca d'Italia. E l'altra notizia non buona arriva da Eurostat, che è andata a misurare il tasso di attività dei vari cittadini dell'Unione Europea, ossia la popolazione economicamente attiva, sia quella occupata e disoccupata, misurando l'offerta di lavoro. Ora, il tasso di attività dei cittadini italiani si ferma ad appena il 68%, contro una media europea del 77%, e il tasso che viene è in realtà superato dagli stranieri che sono in Italia, al 74%. 3%. Per cui c'è un tasso di attività più alta negli stranieri residenti che non negli italiani e nei cittadini stessi. Tra l'altro tutti gli altri paesi, diciamo, sono sopra di noi. Questo nel giorno in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze dà un dato sulle entrate tributarie erariali cresciute nei primi 4 mesi dell'1,7%, sia per le imposte indirette che per le imposte dirette. Sono cresciuto nel periodo gennaio-aprile appunto dell'1,8% per un totale di 121 miliardi di euro. E vanno bene anche le entrate IVA nei primi 4 mesi del 2016, 10% in più rispetto allo stesso periodo del 2015, soprattutto grazie agli scambi interni. Risulta in calo invece il prelievo sulle importazioni, dimostrazione che un po' ripartita la domanda interna, ma ha frenato invece quella sul commercio estero. Ancora due notizie che riguardano comunque l'economia. Perché lo dico? Perché da un lato l'industria dell'energia solare in Cile, si è saputo oggi da un report pubblicato dall'agenzia Bloomberg, praticamente permette al Cile Il prezzo dell'elettricità in Cile ha raggiunto lo zero per 113 giorni fino ad aprile. È una buona notizia per i consumatori, meno buona per le imprese che devono generare del settore energetico. Questo grazie a cosa? Grazie all'energia solare, che ormai in Cile è arrivata a fornire praticamente gratis l'elettricità al paese. E fa il paio con questa notizia il boom di auto elettriche che si è registrato nel 2015. Sono oltre 1 milione in tutto il mondo, chiaramente, ma 1 milione può sembrare poco, in effetti lo è rispetto al parco macchine complessivo, però la cosa interessante è che nel 2015 sono state vendute il 70% in più di auto elettriche rispetto al 2014, e quindi la Cina è diventata il primo mercato mondiale dell'auto elettrica, assieme a Stati Uniti, Olanda e Norvegia, che da soli hanno il 70% dell'intero mercato delle auto elettriche. (349) 238 6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di per SMS e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo col primo tema, le sfide dei grandi comuni, al di là di chi poi farà il sindaco, visto che è tutto un ballottaggio, ma sfide di carattere economico, a partire dalla definizione di quelle che saranno le cosiddette entrate proprie dei comuni, che hanno toccato negli ultimi anni i livelli minimi. Allora, sapete tutto dai nostri GR24, insomma tutte le grandi città vanno al ballottaggio, il successo del 5 Stelle della Raggi a Roma con il 35,4%, che andrà a battersi contro Giachetti, 24,8%, questo per la divisione del centrodestra, nel senso che sommando i voti della Meloni e quelli pochi, devo dire, di Marchini, se fosse stato unito al centrodestra sarebbe andato lui al ballottaggio a Roma, con un ulteriore peso, diciamo, sul PD e su quella che è una tornata elettorale che non può certo soddisfare il PD. Infatti il presidente del Consiglio Renzi ha detto di non essere soddisfatto. A Napoli De Magistris ha il 42,4%, se la vedrà con Lettieri del centrodestra 24%, resta fuori la Valente del PD. Torino, altra sorpresa, Fassino con il 42%, si scontrerà con Appendino che prende il 30,8%. E Bologna, invece, Merola 39,5%, si sfiderà con Borgonzoni del centrodestra col 22,3%. Confermato invece, a mio avviso, la minor notizia arriva da Milano, perché settimane che diciamo testa a testa in recupero Parisi e si va verso il testa a testa, confermato, perché tra Sala e Parisi c'è meno di un punto percentuale. Sono stati calcolati 4.000 voti di differenza, 41,7% per Sala, 40,8% per Parisi. Nel frattempo, chiunque vincerà, dicevamo, dovrà confrontarsi con una riduzione del margine di finanza propria dei vari comuni. Mentre sono aumentate le responsabilità dei sindaci, si sono ridotti infatti gli spazi di autonomia per agire sulle entrate fiscali. Il peso delle entrate proprie, cioè quelle di pertinenza dei comuni, sul totale di quanto entra nelle casse di un comune, ha toccato il livello minimo, ossia al 54%. 2 anni fa, era al 62%. Chiaro che viene meno il gettito IMU e TASI sulle abitazioni principali e terreni agricoli. Però mi sembra di aver capito dalla bella paginata di oggi su Sole 24 Ore, a firma di Gianni Trovati, che il problema sia definire un perimetro chiaro per il futuro. Gianni, buonasera. Sera, buonasera a voi. Cioè, al di là del gettito complessivo e dei vari casi, perché noi sappiamo che a Roma il debito pre-2008 ammonta a 12 miliardi di euro, e tra l'altro a Milano invece c'è tutto il tema di valorizzare, poi vi arriviamo, l'area post-Expo. A Napoli è migliorato lo stato delle finanze pubbliche, disavanzo è sceso 250 milioni di euro, a Torino c'è un debito di 2 miliardi 800 milioni di euro, ma mi sembra di capire dal tuo ragionamento che il problema prima di tutto sarà il perimetro su cui muoversi. Sì, perché noi veniamo in un anno che era nato come provvisorio, ma come sappiamo poi le cose provvisorie in Italia rischiano di diventare definitive anche quando non è saggio mantenerle. Il punto è questo: nella manovra dell'anno scorso è stato tolto, sono state cancellate le tasse, la TASI in particolare, sull'abitazione principale, l'IMU, sui terreni agricoli, e per evitare buchi nei conti dei comuni a ogni comune è stato dato un assegno statale equivalente al gettito, cioè tu comune X perdi 100, lo Stato ti ridà 100. Naturalmente questa roba da un lato costa sulla fiscalità generale, perché circa 4 miliardi che sono stati dati, 3,8, ai comuni per compensarli non vengono colti dagli alberi, ma vengono tratti dal bilancio pubblico generale, e soprattutto congela una situazione sperequata, perché chi prima del blocco aveva alzato di più le tasse ottiene un assegno statale compensativo più alto, chi invece era rimasto più basso ottiene un assegno compensativo più basso e non può farci nulla. L'anno scorso il governo aveva detto: tranquilli, teniamo una cosa del genere solo per un anno, per semplicità, per evitare le polemiche che ci sono sempre in questi casi sul governo che toglie una tassa con una mano e i comuni la rimettono con l'altra, ma si era detto: nella manovra dell'anno prossimo ridefiniremo il tutto e ridaremo autonomia ai comuni, perché in questo modo, come dire, la situazione delle entrate, cioè l'aspetto più importante dei bilanci locali, è sostanzialmente predefinita in partenza, e quindi tutte le promesse varie che gli elettori dei tanti comuni al voto hanno sentito in queste settimane sul fronte fiscale sono più o meno destituite di fondamento, fino a che non si ritrova una regola normale. Il problema è questo: come fai a ridare 4 miliardi circa di autonomia fiscale ai comuni senza aumentare il carico fiscale complessivo a carico dei cittadini? Questa domanda al momento non c'è risposta e temo non ci sarà nemmeno quando sì, arriveremo alla manovra. La cosa più interessante che ricordo un po', sempre in tema di enti locali, la sperequazione che si creava sulla spesa storica, mutatis mutandis, perché i comuni o le province o le regioni che avevano più sprecato e avevano una spesa storica più alta se la vedevano confermare, quelle virtuose restavano inchiodate a non poter spendere neanche un euro di quello che avevano in cassa e né aumentare la spesa. In questo caso sostanzialmente si è detto: bene, quanto era il gettito prima dell'eliminazione dell'IMU? Faccio un esempio: a Roma IMU e TASI pro capite 524 euro, a Milano IMU e TASI 570, a Napoli 250, a Torino 390, e diamo ai comuni quello che beccavano prima. Piccolo problema: uno dei motivi per cui secondo me l'IMU non era da levare, l'abbiamo detto in molti modi, ma anzi bisogna fare una manovra su IRPEF, ma al di là IRAP-IRES, l'IMU rappresentava veramente una delle poche forme di autonomia fiscale vera dei comuni, perché un comune poteva decidere di tenerla bassa un anno, poi l'anno dopo, metti che abbia delle spese improvvise, degli investimenti, decida di fare, può anche chiedere un contributo ai suoi cittadini. In questo caso, se ho ben capito Gianni, non sarà più possibile, perché se tu avevi quel gettito di IMU, te lo tieni tutti gli anni successivi, anche se magari nella tua autonomia l'avresti aumentato o diminuita in altri casi, a seconda delle esigenze. Esattamente, e per quest'anno il problema è accresciuto dal fatto che, sempre per evitare le polemiche di cui dicevamo prima, la manovra ha congelato le aliquote dei comuni, il che, per carità di Dio, in generale è un bene, perché vuol dire che le altre tasse locali, per esempio l'addizionale IRPEF, quest'anno non possono aumentare rispetto all'anno scorso. Ma il problema è ancora quello: chi le aveva alte le tiene alte, chi non le aveva per nulla o le aveva molto basse è costretto in ogni caso a tenerle basse, anche se magari, come dire, si poteva passare dallo 0,2 allo 0,3 per finanziare un progetto che serviva ai cittadini. Ma al di là di quello, il punto è che una condizione del genere non può che essere transitoria, ma al momento non ha una soluzione per uscirne, perché se tu ridai leva fiscale ai comuni senza togliere qualcos'altro, aumenti il carico fiscale, e naturalmente il carico fiscale complessivo è già abbastanza alto per i nostri gusti, diciamo così. Però l'alternativa è tenere per molti anni congelata la situazione attuale con le sperequazioni che ha al proprio interno. Sì, poi parleremo del risultato più in chiave politica e anche di sfide che attendono il governo più avanti con Guido Gentili, titolarista del Sole 24 Ore. Però è innegabile che, almeno questa battuta fatemela fare, politicamente mi sembra servito molto a poco levare l'IMU, cioè visto il risultato del PD, ha creato dei gran casini dal punto di vista poi delle finanze locali, perché li stavi tu raccontando. È stata una manovra che a mio avviso non fa ripartire l'economia, perché lasci i soldi in tasca anche a persone che non ne avevano bisogno, passatemi in termine, tutti vogliamo qualche euro in più, ma alcuni ne hanno bisogno e altri no, non libera e non riduce il cuneo fiscale e quindi la differenza tra quanto costa un lavoratore e quanto percepisce in busta paga, e non ha nemmeno quell'effetto politico che uno poteva attendersi, visto che c'era una chiara componente in qualche modo elettorale nel levare l'IMU. Cosa vuol dire però, Gianni, che nel frattempo i comuni hanno ridotto gli spazi, hanno avuto visto ridursi gli spazi di autonomia fiscale, ma aumentare le responsabilità? Allora, vuol dire due cose. Vuol dire da un lato che l'azione, diciamo così, della Corte dei Conti intercetta un po' tutti i tipi di attività del comune. Siamo andati a guardare sostanzialmente gli ultimi casi di contestazione di danno erariale, cioè quando la Corte dei Conti ti chiede indietro a te amministratore dei soldi che tu avresti o hai, soldi pubblici buttato via con le tue scelte caratterizzate da dolo o colpa grave, e c'è un po' di tutto. E poi aumentano le responsabilità dei sindaci nella ripresa delle economie territoriali, perché il patto di stabilità è stato cancellato, quest'anno è stato sostituito dal pareggio di bilancio. L'obiettivo è far ripartire gli investimenti locali. Per far ripartire gli investimenti locali è prima di tutto responsabilità del sindaco e dell'amministrazione comunale, cioè in soldoni i sindaci che hanno vinto o vinceranno dopo il ballottaggio potranno per un qualche mese ignorare il tema di tasse e tariffe, tanto è già tutto ipotecato come abbiamo detto, e buttarsi sulla definizione di nuovi progetti, perché per far ripartire gli investimenti locali ci vuole tempo. Qual è il problema di fondo? Però se tu non hai un quadro economico chiaro delle tue entrate, cioè di quello di cui puoi disporre almeno nei prossimi, diciamo, 3 anni, è difficile che tu faccia realmente degli investimenti. Siccome questo era l'obiettivo chiave della manovra del governo, cioè far ripartire gli investimenti locali che producono PIL, fanno crescita, eccetera, eccetera, è un obiettivo che al momento è circondato da incognite, anche se alcuni segnali positivi ci sono. Allora, grazie intanto a Gianni Trovati, poi vedremo anche l'esito dei ballottaggi, però è innegabile che al di là del nome, è ovvio che è importante politicamente, il tema di come ridare un po' di flessibilità alla finanza comunale, di questo parliamo, è un tema delicatissimo, anche perché poi non si può chiedere un rapporto con i cittadini se tu non hai la possibilità o di aumentare le tasse, spiegando il perché, le tasse locali, o ridurle perché sei riuscito a ben amministrare e non hai progetti speciali. Grazie Gianni Trovati, meteo, pubblicità, poi andiamo sugli altri temi e sentiamo anche la richiesta che arriva dal mondo dei giovani e dei giovani imprenditori. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. :17:36. Allora, visto che questa settimana si concluderà venerdì, saremo in diretta come ogni anno da Santa Margherita Ligure, perché si tiene l'appuntamento annuale dei giovani imprenditori di Confindustria con una novità importante di cui adesso dirò, ma vi saranno comunque i ministri Delrio, Madia, il ministro della giustizia Orlando, il ministro legato alla Cassa Prestiti Fabio Gaglia, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Piercamillo Davigo. E se ho ben capito, ma chiedo conferma al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Se ho ben capito, avrete anche i sindaci delle principali città, immagino non quelli che vanno al ballottaggio, ma diciamo quelli già in carica. Mi dà un commento intanto su queste amministrative, visto che poi prima commentavamo con Gianni Trovati la scarsa autonomia o la riduzione dell'autonomia fiscale delle entrate che hanno subito i comuni in questi anni, e quindi si trovano più imbrigliati anche nella capacità di aumentare o ridurre le eventuali addizionali IRPEF. Un giudizio su queste amministrative, che cosa si aspetta da qua le prossime 2 settimane? Io parto dicendo che abbiamo invitato i sindaci che a questo punto saranno anche in ballottaggio delle principali città, quindi Milano, Napoli, Roma, Torino, proprio perché i candidati, quindi proprio perché ci aspettiamo che ci sia sia concretezza poi delle proposte, quindi usciti un po' dalla fase, dalla prima fase in cui c'era forse più ricerca del consenso, adesso si entra, spero, nel merito in questi 10 giorni, perché poi in realtà abbiamo bisogno che le nostre città funzionino, funzionino al meglio, perché sono il miglior laboratorio della politica industriale, della politica di successo che noi possiamo vedere. Dato che comunque bisogna sottolineare è che comunque c'è stato ancora un calo dell'affluenza a queste amministrative, e quindi credo che la responsabilità della politica a condividere di più con i cittadini debba essere sottolineato 10 volte, perché se non abbiamo nemmeno più l'impulso di andare a decidere chi sarà il sindaco della nostra città, c'è proprio uno scollamento, che è uno scollamento che sicuramente non fa bene, non fa bene al nostro futuro. Quindi la bassa affluenza e proposte più concrete, perché per esempio il tema della scarsa autonomia fiscale, derivata anche dall'eliminazione di IMU e TASI, che adesso poco fa toccavamo con Gianni Trovati, solo 24 ore, un'intera pagina su questo oggi, è un tema non da poco, perché il rapporto con i cittadini, scusi Presidente, si basa anche, se io ho un'opera importante da finanziare, un progetto infrastrutturale, edilizia scolastica, viabilità, posso chiedere ai miei cittadini: avrete un addizionale, avrete magari un IMU un po' più alta perché migliorerò la città, oppure se ho ben amministrato nel passato posso anche ridurla. Assolutamente sì, ma quello che mi aspetto nell'ambito, quello che secondo me bisognerebbe aspettarci, quello che noi chiederemo, che nell'ambito delle risorse che ci sono, che è chiaro che sono risorse sempre più stringenti, questo è un capitolo credo che poi sia da approfondire sul discorso dei trasferimenti, le vere domande credo sia come far rendere più attrattivo un territorio rispetto alla sua natura di possibilità di sviluppo, come essere più attrattivo per i giovani, come rendere migliori i servizi ai cittadini, perché ricordiamo che comunque i cittadini pagando le tasse devono avere indietro dei servizi adeguati, e così le imprese, perché se noi non facciamo ripartire questa fiducia reciproca, l'insediamento e la crescita delle imprese, io credo che anche il migliore degli amministratori possibili con tanti soldi può creare un regno dorato, ma sicuramente non crea vivacità, che è quella che serve. Senta Guy, voi lo diceste come fu l'opposizione di Confindustria, devo dire anche del Sole 24 Ore, anche di chi vi parla, però a questo punto con senno di poi, forse levare l'IMU è stato la TASI, lo so che molti non sono d'accordo, invece che ridurre IRPEF, IRAP, IRES, non ha pagato neanche politicamente, mi sembra di poter dire, visto il risultato. Cioè non c'è stato l'effetto, forse perché è passato troppo tempo, forse per altri motivi, ma non mi sembra di poter dire che ci sia stato un effetto IMU sul voto. Ma sicuramente l'IMU sugli imbollonati era quello che noi chiedevamo, ma questo è un discorso squisitamente riguarda una parte molto minore. E invece l'altro discorso è che noi l'abbiamo detto a ottobre, che probabilmente era meglio anticipare il taglio dell'IRES fin da subito, fin da quest'anno, anziché aspettare il 2017 in cui comunque ci aspettiamo al rispetto di queste promesse, perché l'economia per girare ha bisogno della possibilità di crescere e di reinvestire, e questo passa anche dalla soddisfazione che trova poi chi fa impresa nel poterlo fare, nel poter massimizzare i propri risultati. Allora, dicevo che voi da venerdì e sabato avrete una carrellata anche di ministri, oltre che di manager, ministro delegati e il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Davigo. Se ho ben capito, però, oggi avete avuto conferma che arriverà alle 18 anche il presidente del Consiglio Renzi. Che cosa chiederete a Renzi? Ma sicuramente quello col Presidente del Consiglio Renzi sarà un momento di grande dialogo, in quanto i giovani imprenditori porranno delle domande al Presidente del Consiglio, delle domande chiaramente attinenti alla vita di economica, al fare impresa, all'essere giovani, al creare un'impresa, e ci aspettiamo delle risposte e con dei tempi concreti, che cosa si può e cosa ne si può fare. I macro temi che andremo a trattare all'interno del convegno, ed è quello su cui probabilmente ci confronteremo col Presidente del Consiglio, sono l'Europa con la Brexit al centro, la politica industriale e i temi delle riforme a cui andiamo in fondo, perché noi dobbiamo approfondire bene questi temi, e quindi questa disponibilità del Presidente del Consiglio a venire al nostro convegno e a dedicare del tempo a domande e risposte aperte, sicuramente è un'opportunità che ci può far costruire una visione più chiara, e soprattutto una strategia a cui comunque per il bene del nostro paese noi come imprenditori dobbiamo e vogliamo partecipare. Dunque, le vostre linee guida, poi ne parleremo anche venerdì, saremo in diretta da lì, riguardano per esempio il Sud, che è un capitolo e un tema ancora dimenticato nell'agenda governativa, la legalità, al di là di ogni retorica, e l'innovazione, investire nell'innovazione. Volevo capire però una cosa, mi rendo conto che chiedere al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria se l'età anagrafica sia un valore è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però forse non c'è stata un po' di confusione tra il rinnovo della classe dirigente, anche economica, quindi anche di chi sta nelle imprese, anche nella separazione tra proprietà e manager, per cui tu puoi essere proprietario di un'impresa ma non devi per forza esserci tu o i tuoi figli se non vogliono, e l'età anagrafica. Cioè, un conto è parlare di un paese in cui si rinnova molto poco, altra cosa è dire che necessariamente l'età anagrafica è sintomo di rinnovo, un eccesso anche di così giovanilismo come retorica. Ecco, secondo me l'errore è proprio quello di parlare di giovanilismo, cioè non è che bisogna essere giovani. No, perché da lei, la nuova Confindustria, lo dico, tanto è il nostro editore, scriverete quello che volete, ha tutta una squadra da boccia, a lei, a Pedrollo, se vado a memoria, alla Mansi, tutti di giovani, insomma, giovani in questo paese, insomma, non vecchi, ecco, mettiamola così. E quindi, però, il tema è l'età anagrafica o la capacità di rinnovare dentro le aziende, oltre che nella politica? Secondo me è sicuramente la capacità di innovare, ma non bisogna sottovalutare il fatto che l'energia, la spinta al cambiamento, la visione con occhi diversi che ha un'età più giovane è sostanziale. Poi onestamente non si può fare il cambio con la visione, l'esperienza e l'età. È chiaro che ci va il combinato di queste, ma io ritengo che in Italia abbiamo una grandissima capacità di innovazione, abbiamo tantissimi talenti, abbiamo una classe dirigente capace di fare questo. Io sono per la convivenza generazionale, non per il ricambio generazionale a tutti i costi. Che esperienza può aiutare chi ne ha meno a fare meglio, ma sicuramente chi ha meno esperienza ma tanta voglia di fare, tanta determinazione, deve essere lasciato libero di agire e deve avere l'opportunità per farlo. Non è giovanilismo, ma forse è pragmatismo. E da questo punto di vista che cosa chiederà invece ai suoi associati, visto che il presidente di Confindustria, neoeletto, nel suo discorso di investitura ha fatto anche autocritica sul mondo delle imprese, dicendo attenzione, le dimensioni non possono essere un dettaglio, la qualità di chi dirige le nostre imprese va scelta su criteri manageriali e non sulla base della proprietà, e quindi torniamo al discorso di padri e figli, e attenzione a pensare che le dimensioni piccole possono essere un punto d'arrivo, sono casomai un percorso della vita ma non possono essere il punto d'arrivo. Lei cosa chiederà ai suoi tra virgolette giovani? Ma sicuramente di aiutare il cambio di mentalità che purtroppo è ancora risiede soprattutto nelle aziende che hanno qualche generazione alle spalle. Bisogna iniziare a guardare all'apertura del capitale, quindi all'equity, come una risorsa per crescere, quindi andare ad aprire il proprio azionariato, ma aprirlo per avere più competenze, quindi avere un management dove manca, perché non è detto che chi è il figlio dell'imprenditore, l'imprenditore stesso, sia la persona migliore nel ruolo chiave che serve. Quindi apertura e volontà di crescere, perché il limite dimensionale è un'opportunità quando si ha la dimensione giusta per il mercato di riferimento, ma è ineccepibile che su un confronto internazionale per la maggior parte dei mercati la dimensione dell'azienda conta, quindi in quella dimensione dobbiamo andare. La qualità e l'eccellenza del piccolo non deve essere persa crescendo, ma è indubbio che si debba crescere e deve partire, tornando al discorso di prima, dalle nuove generazioni, anche la spinta nell'apertura e nella crescita. Noi abbiamo una grande fortuna, siamo una generazione che è stata contaminata e ha contaminato viaggiando molto e conoscendo altre esperienze e spesso facendo esperienze anche di lavoro all'estero. Adesso è il momento di portare queste competenze a casa nostra e perdere la paura di perdere il controllo, perché in realtà si corre il rischio, come purtroppo in alcuni casi è successo, di avere aziende che poi non hanno un futuro. Noi il futuro lo vogliamo ricco, lo vogliamo solido, e quindi se dobbiamo cambiare pelle deve partire proprio da noi. Guardi, se permette, sì, anche con un pochino più, meno buonismo delle volte, nel senso che se tu devi scalzare, devi cambiare i vertici di un'impresa, occorre anche combattere, tirare fuori le unghie, non dico, non voglio la guerra, diciamo, intergenerazionale o intragenerazionale tra padri e figli, ci mancherebbe, però anche il non puntare subito alla convivenza con un padre ingombrante, che non so se mi sto spiegando, cioè non esistono pasti gratis in economia, e quindi dalle volte anche un pochino più dire vabbè, io sono pronto a guidare questa impresa, mi sento pronto, vediamo di tirar fuori anche le unghie. Vi dico un'ultima cosa, Guy, lei ha votato, perché non so dove risieda. Io ho votato a Torino, sì. Basta, non posso però chiederle. Sì, no, assolutamente. Vuole dirci cosa ha votato? Perché credo che sia una responsabilità. Beh, direi che non è il caso di dire a chi ha dato il voto, ma sicuramente invece posso dire che siccome la scelta è importante, sono andato a votare perché credo che sia la responsabilità farlo. Allora, con lei ci risentiamo fisicamente venerdì, perché saremo appunto lì in diretta, poi... Ho visto che i lavori verranno moderati da una nostra conoscenza, perché sarà sia David Parenzo sia venerdì che sabato, me lo conferma? Lo confermo. Beh, complimenti per il coraggio. Grazie al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai, Traffico. Focus Economia. Minuti, andiamo adesso sulla borsa e poi torniamo a parlare sia, diciamo, di una valutazione più di carattere nazionale sulle amministrative e quindi sulle politiche economiche e della vicenda Inter, del primo ingresso dei cinesi. Lo dico con molta serenità, non tifando Inter, sono abbastanza obiettivo. Toir aveva comprato a debito, questi ci mettono i soldi veri. Ma andiamo con ordine, prima di tutto la borsa più 0,70%, Parigi invariata, Francoforte più 0,1, Londra più 1%, Dow Jones più 0,66, quindi Milano meglio di altre borse. Poi diremo anche chi ha perso, però molto bene CNH Industrial più 6,30, il Banco Popolare più 5%, rivede quota 3 euro per azione, Tenaris più 5, Pop Milano più 3,20, Saipem più 2,80, Eni oggi il petrolio in rafforzamento vicino ai $50 al barile, Eni più 2,60, Finecobank più 1,50 come A2A e Buzzi Unicem. I peggiori, Leonardo Finmeccanica meno 2,12, Unicredit meno 1,90, UBI meno 1,30, Mediobanca meno 0,70%. Quindi recupero, perlomeno lo tenta il Banco Popolare, la Popolare di Milano, nulla da fare invece per Unicredit, che continua a passarsela non bene. Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Vai, Leonora. Sì, Unicredit soffre ovviamente l'incertezza sull'avvicendamento ai vertici. Comunque qualche novità potrebbe emergere già questo mercoledì, quando si terrà il consiglio di amministrazione della banca. Invece è partito bene nel primo giorno dell'aumento di capitale il Banco Popolare, anche se bisogna tenere presente che da inizio anno, ahimè, ha perso il 70% del proprio valore, quasi il 30% solamente nel corso dell'ultimo mese, proprio in vista di questa operazione che comunque è partita bene, anche i diritti sono volati quasi del 15% a 1,17 euro, e sono andate bene ovviamente anche le azioni della Banca Popolare di Milano, più 3,17%. Del resto ricordiamo che l'operazione di rafforzamento del capitale è propedeutica proprio alla fusione tra i due istituti. Allora, questo per quello che riguarda il mondo bancario. Oggi spicca poi il botto di CNH, Casey Holland. CNH ha fatto più 6,3%, diciamo che accendere i riflettori sulla società è stata Goldman Sachs, la banca d'affari americana, che ha messo CNH nei titoli preferiti, nella lista dei titoli preferiti, e questo sulla scommessa che ci sia una ripresa del mercato americano, del mercato dei prodotti appunto legati all'agricoltura, e questo porterà ovviamente anche a un miglioramento dei margini dell'azienda. Insomma, evidentemente Goldman Sachs ha avuto un seguito, e così i titoli sono volati del 6,3%, trascinando al rialzo anche le quotazioni di Exor, che hanno fatto più 1,18% in una giornata in cui Fiat e Ferrari sono rimaste sostanzialmente al palo. Sì, ancora per quello che riguarda invece Eni, beh, Eni, Saipem, possiamo archiviarla con un petrolio più 2%. In rialzo del 2%, mentre tra i migliori e i peggiori Pininfarina più 7,27, e vorrei un commento su Pininfarina e su Acea, che avevo visto soffrire abbastanza oggi. Sì, Pininfarina oggi la Consob ha ufficializzato l'ingresso degli indiani di Mahindra nel capitale con una quota del 76%, sono i nuovi azionisti di controllo della società e quindi il titolo è subito volato. Per quanto riguarda CEA invece in questo caso è tutto il giorno che la società si è mossa in modo debole, alla fine ha perso il 3,17%, perché è un po' l'impatto, l'onda lunga di quelli che sono i risultati elettorali, fa paura al mercato l'eventualità che la Raggi possa diventare sindaco, soprattutto perché in campagna elettorale sia il Movimento 5 Stelle sia la stessa Raggi ha mostrato di essere critica contro la gestione privatistica dell'acqua e quindi ci si interroga sull'impatto che potrebbe avere sulle municipalizzate, ma in primis sulla stessa CEA. Allora, diciamo dei migliori e peggiori, è chiaro che sulla CEA, sulle municipalizzate, per esempio, il ragionamento, il dato delle amministrative incide sul titolo, non c'è nulla di strano. Allora, dicevo, oltre a quelli citati come titoli, bene anche SEAT, pagine gialle più 4%, IMSI più 3,75%, male invece EMAC meno 5,80%, Visibilia meno 5% e il Credito Valtellinese che perde il 4,70%. Grazie, onore Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Andiamo sul GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Just hoping the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hoping the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Anything for ya. I know. 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Focus Economia dagli studi di Roma con Sebastiano Barisoni. Arriveremo adesso al, vedo molti messaggi sull'Inter, alcuni fanno notare che i cinesi potrebbero o sono addirittura d'arrivo per comprarsi anche il Milan, lì c'è stato qualche intoppo nel fine settimana, anche una dichiarazione di Berlusconi che scherzando è tornato sul tema dei cinesi che mangiano i bambini, non è che l'abbiano presa benissimo in Cina. Però sì, non so se il prossimo derby sarà un derby tutto cinese, adesso vi arriviamo, però volevo fare un ultimo ragionamento sulla notizia del giorno, chiaramente, e mi riferisco all'andamento della prima tornata di elezioni amministrative, perché se Gianni Trovati ci ha spiegato quelli che dovranno essere, cioè, i nuovi ragionamenti fatti con i sindaci sull'autonomia di cassa, chiamiamolo così, delle entrate, beh, non sfugge a nessuno che tutta la proiezione, il ragionamento che si inizia a fare adesso, al di là delle varie dichiarazioni, è anche di carattere nazionale. Vedo che Renzi ha dichiarato che sono su Napoli è uno dei peggiori risultati da sempre del PD. Io continuo a dire banalmente che, insomma, le notizie si chiamano Roma, Torino e Napoli. Milano fa obiettivamente meno notizie. Comunque, riepilogo per chi si fosse appena collegato: a Roma la Raggi al 35,4%, va al ballottaggio con Giachetti che ha 24,8%, che per 4 punti, poco più, la spunta su Giorgia Meloni. Se sommassimo i voti della Meloni con quelli di Marchini, ampiamente sarebbe andato al ballottaggio il centrodestra con la Raggi. A Napoli De Magistris il 42,4%, se la vedrà con Lettieri del centrodestra 23,9%, non va al ballottaggio a questo punto la candidata del PD, la Valente. Ancora a Torino Fassino al 41,9% si scontrerà con la sorpresa per molti, l'Appendino con il 30,8%. A Bologna uno scontro più classico, tra virgolette, Merola col 39,5% del centro-sinistra si scontrerà con Borgonzoni del centro-destra che ha il 22,3%. Milano testa a testa totale 41,7% per Sala, 40,8% per Parisi. I say you got me. Allora, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera innanzitutto. Buonasera. Sui temi di, a cavallo tra politica ed economia, qui partiamo però dal, vorrei intanto un tuo primo commento su questo risultato, poi andiamo a capire che cosa potrebbe cambiare e accapitare come proiezione nazionale. Allora, gli aspetti interessanti sono diversi. Il primo, secondo me, è il dato sull'affluenza. C'è un sensibile calo al 62% come media nazionale, però il dato più significativo è il calo molto più accentuato nelle città del nord e in particolare a Milano e a Bologna. A Milano non si raggiunge il 55%, quindi questo è il primo dato. Secondo dato, chi ha vinto nei partiti? Beh, secondo me si può dire che ha vinto in questa fase, almeno al primo turno, il Movimento 5 Stelle, in particolare guardando il risultato di Roma, che è un risultato importante, è un risultato che porterà i 5 Stelle anche alla ribalta internazionale, perché c'è molto interesse all'estero per decifrare meglio questo movimento. E è più in difficoltà ovviamente il PD, e lo ha ammesso lo stesso Renzi. Il Forza Italia riesce ad avere un risultato positivo ad esempio a Milano, molto meno positivo a Roma, dove è praticamente quasi scomparsa, perché parliamo di una cifra intorno al 4%. E il terzo dato, chi ha vinto come candidati? Beh, insomma, io segnalerei innanzitutto, a parte, ne abbiamo già parlato di Virginia Raggi al Movimento 5 Stelle, ma segnalerei la rimonta di Stefano Parisi a Milano, dove ha fatto un piccolo miracolo, perché partiva molto indietro rispetto a Giuseppe Sala. Evidentemente la formula del centrodestra a Milano, centrodestra unita, ha funzionato, ma secondo me è stata la qualità, diciamo, della candidatura di Parisi, che tra l'altro è molto simile, erano a quella di Sala, due ex city manager della città, che ha portato a questo risultato. E il ballottaggio io lo vedo interessante, nel senso che sarà aperto fine all'ultimo, il risultato secondo me è molto incerto. Ultimo elemento è il contraccolpo che riguarda il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e ha ammesso oggettivamente di non aver vinto questa tornata elettorale, ha messo l'accento in particolare sulle difficoltà grosse del partito, in particolare a Napoli, e in vista del referendum secondo me sarà molto importante il risultato che si avrà a Milano, perché un'eventuale vittoria del centrodestra, quindi della candidatura a Parisi, renderebbe, diciamo, ancora più spinoso il percorso del Premier verso il referendum costituzionale, e quindi che lui stesso considera, come sappiamo, la vera partita dell'anno. Il test su se stesso. Non hai citato Torino, forse sono solo io che mi entusiasmo su Torino, però devo dire che sì. Nonostante l'ottimo piazzamento è dato, diciamo così, per Fassino, il 41,9, sì, che è quasi identico a quello di Sala a Milano, insomma se la gioca contro Appennino, che è arrivata quasi al 31%. È un risultato importante anche questo per il Movimento 5 Stelle, fa parte, diciamo, del discorso di chi ha vinto di questa tornata elettorale, considerando anche che al ballottaggio con ogni probabilità i voti del centrodestra finiranno sul candidato del Movimento 5 Stelle, sulla candidata del 5 Stelle. Quindi anche qui si annuncia un ballottaggio interessante. Ecco, vorrei restare ancora un attimo su questo aspetto che tu toccavi, i ballottaggi, perché lì non sfugge nessuno che potrebbero essere, a partire anche da Milano, laboratorio politico interessante. Nel senso che Milano chiaramente non può più aggregare centrodestra, tutto il centrodestra era già aggregato su Parisi, e dovrà andare a cercare, a pescare lì, diciamo, i 5 Stelle a Milano hanno preso poco, onestamente, 10%. 10%, quindi, così come pochissimo hanno preso a Napoli, se andiamo a guardare. Ma non c'è solo il laboratorio Milano, ci sono anche, tu citavi il caso di Torino, bisognerà capire a Roma, ho visto che la Meloni ha detto non me la sento di dare indicazioni di voto, ha dichiarato oggi, però insomma, lì, al di là del semplice sindaco che uscirà, secondo te si inizieranno a fare esperimenti, fermo restando che non ho capito di che genere, perché Berlusconi è molto contrario, anzi vede come fumano negli occhi i 5 Stelle, ma ho visto che Salvini diceva bisogna ragionare bene su questo voto. Sì, è così, il panorama è molto frastagliato, però se guardiamo questo risultato e le tendenze dei partiti e i possibili risultati del ballottaggio e li ricolleghiamo alla partita del referendum, beh, allora insomma possono esserci delle sorprese, perché potremmo ritrovarci poi alla fine con un fronte del no molto compatto, cioè un fronte che va da 5 Stelle, il centrodestra, una parte della sinistra, e quindi questo potrebbe fare poi la differenza in quella partita. Per questo dico che dobbiamo attendere i ballottaggi, perché da questo punto di vista il risultato ad esempio di Torino, di Milano sono molto importanti, anche quello di Bologna non è così scontato, no, come si possa pensare, perché il candidato del PD ha preso il 40%, se non ricordo male, quindi è un risultato buono ma non entusiasmante, quindi suscettibile anche lì di trovare, diciamo, delle alleanze che magari fino a un mese fa erano impensabili. Sì, devo dire che l'unico certo, secondo me, se non gliela voglio tirare per il ballottaggio, è De Magistris, a questo punto, visto, sì, lo scarto direi, che ha nei confronti del centrodestra, sì, e del centrosinistra, perché insomma dubito di vedere un'alleanza, no, tra Lettieri e la Valente, insomma, capisco il laboratorio, ma qui saremo agli apprendisti stregoni. Senti, non c'è stato l'effetto IMU, tornando a temi economici, nel senso che l'IMU poteva essere un elemento da giocarsi in chiave elettorale, mi sembra che ce la siamo tutti già dimenticata, ma soprattutto che cosa, sempre come proiezione, questo potrà dire per le politiche economiche, perché a ottobre c'è il referendum, adesso vedremo che data verrà scelta, ma a ottobre si predispone anche la legge di stabilità, faccio certo, notare, che è particolarmente delicata, perché l'Europa ci ha detto ok, avete più flessibilità a patto che manteniate le promesse sul 2017. È un incrocio pericoloso quello tra il referendum e la predisposizione della legge di stabilità, e probabilmente arriveremo più o meno negli stessi giorni. Poi sappiamo che la legge di stabilità verrà inviata, anche approvata dal governo, e sarà inviata a Bruxelles, dove verrà discussa a novembre. Quindi è un incrocio pericoloso, perché si possono sommare tante cose, tra cui la necessità per gli uni e per gli altri, cioè per i fronti contrapposti sul referendum, di accrescere la visibilità in quella stagione, in quelle settimane importanti, per cui possiamo assistere a uno scontro molto duro anche sui temi della politica economica, con il rischio che diventino oggetto di una campagna elettorale, pre-elettorale, molto violenta, che investe il tema del referendum e poi chissà mai le elezioni, perché noi abbiamo la scadenza naturale della legislatura nel 2018, ma dobbiamo anche vedere quale sarà il risultato del referendum, stante anche quello che ha detto il Premier Renzi, che lo considera decisivo sulla sua permanenza politica. Io personalmente penso che non si voterà mai nel 2018, ma molto prima. Comunque è una mia personalissima idea. È una forte possibilità. Grazie a Guido Gentili, terrorista del Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi occupiamoci dell'Inter ai cinesi, del Milan forse ai cinesi. Focus Economia. :19, ultima parte di Focus Economia. Allora, la battuta, insomma, potrebbe essere per l'Inter, inizia l'anno del dragone. Io dico, non tifo Inter, è noto quello che tifo, quindi ormai non sono neanche più in conflitto di interessi, perché il Verona è andato in B. Ma insomma, l'Inter ha un proprietario cinese, 270 milioni di euro. Il Sunning Holdings Group ha acquisito il 68,5% dell'Inter in questo modo. A Eric Toir resta un 31% la carica di presidente per ora. Moratti ha ceduto anche l'ultima parte della quota, esce definitivamente dall'Inter dopo 21 anni, ha ceduto il 29,5%. La Cina, voi pensate che sia solo un'operazione finanziaria? Non è esattamente così, perché a parte le dichiarazioni del presidente del Sunning Zhang Yidong, ha detto insomma, noi renderemo l'Inter più forte e magnifica, so già la battuta, non ci vuole molto, vabbè, me la dico da solo, però il problema è che il gruppo Sunning è un gruppo che opera nel commercio di elettrodomestici, ha 1700 negozi tra Cina, Giappone e Hong Kong, 13.000 dipendenti e fattura oltre 18 miliardi di euro da solo fa un quinto di tutto il mercato dei prodotti elettronici cinesi. Ed è tra l'altro lui è l'uomo più ricco di Cina, Zhang Jindong, e scusatemi, il 28esimo uomo più ricco di Cina, ho sbagliato io, ma è il 403esimo posto al mondo con un patrimonio personale di 3 miliardi e 800 milioni di dollari. Sentiamo intanto Moratti sull'uscita sulla sua uscita definitiva dall'Inter. E poi con Marco Bellinazzo ragioniamo del derby del Dragone. Fra un po' lo chiamiamo, perché se fa l'operazione anche sul Milan, faremo il derby del Dragone. Comunque, Moratti sulla sua uscita. Devo dire che io ho già venduto 3 anni fa, quindi questo è un passaggio definitivo, ma qualche cosa che completa qualche cosa che era già successa 3 anni fa. Soprattutto è interessante vedere quello che inizia, cioè inizia qualche cosa con un gruppo che mi sembra, sempre conto del presente, ma con un gruppo molto forte che può essere veramente utile alla squadra, insomma. Allora, Marco Bellinazzo, buonasera del Sole 24 Ore. Buonasera. Nel frattempo stavo guardando, non c'entra niente con l'Inter e con il Milan, che Goldman Sachs ha diffuso le possibilità di vittoria per gli europei di calcio. Non siamo messi bene come Italia, eh? A noi ci danno almeno del 2% delle possibilità, o meno le stesse chance della Turchia. Favorita la Francia con il 23%, Germania 20%, Spagna 13%, Gran Bretagna 10%, Portogallo più alto di noi all'8%. Goldman Sachs ha avuto un ruolo centrale, tra l'altro, in questa vicenda dell'Inter, perché era la società che ha ristrutturato il debito dell'Inter, sì. E che di fronte, diciamo, agli insuccessi del pioniere azzurro ha poi cercato un partner, e quel partner l'ha trovato in Suning. In realtà Suning voleva la maggioranza fin dall'inizio, Torino non voleva cedere, e poi è stato Moratti un po' a sparigliare il tutto, perché aveva una clausola put che ha esercitato vendendo, insomma, la sua quota a Toir, che poi l'ha rivenduta a Suning, peraltro con una valorizzazione incredibile, nel senso che 3 anni fa la quotazione dell'Inter nell'operazione Toir Moratti era di 350 milioni e qui siamo oltre 700 milioni. Miracolo di Toir, miracolo dei cinesi, non so, forse la verità è a metà strada. Fatto sta che comincia una nuova era ed è il più grande investitore straniero che arriva nel calcio italiano, insomma, con una liquidità, sì, immensa. Tra l'altro faccio notare che la gestione Toir, al di là dei risultati calcistici, è stata deludente anche dal punto di vista finanziario, perché ha chiuso il bilancio 2014-2015 negativo per 74 milioni. I dati a ottobre 2015 evidenziavano una perdita di oltre 140 milioni di euro per l'Inter. Però vorrei non concentrarmi in quest'ultima parte solo su Inter e Milan, perché in realtà la Cina, che ha l'obiettivo di ospitare i mondiali di calcio nel 2030, si è data questo obiettivo come fanno i cinesi, con i piani quinquennali di vecchia memoria. Penso che loro non è che dicono vorremmo dire, no, dicono, ma bisogna che da qua al 2020 ci siano un certo numero di milioni di pulcini, esordienti e varie categorie. Hanno investito dal 2015 2 miliardi e 600 milioni di dollari in partecipazioni in varie società di calcio, tra cui Manchester City 400 milioni di dollari, Atletico Madrid 52 milioni di dollari, Aston Villa 86 milioni di dollari, diritti TV di Infront, allenatori, calciatori, i club della Superliga cinese hanno speso più di Premier inglese e Liga spagnola l'anno scorso per gli acquisti nel calciomercato, l'inverno scorso, 290 milioni di dollari. Quindi, in questa logica, Marco, l'acquisto dell'Inter fa parte, se mi passi la battuta, di un piano quinquennale anche quello. Assolutamente, Sebastiano, ed è strettamente collegata. Ora agli amanti del calcio può sembrare un po', forse un po' esagerata come cosa, ma in realtà è così. Questo piano rientra in una strategia di soft power che la Cina sta mettendo in atto anche per combattere quella battaglia di cui spesso vi siete occupati, che riguarda il riconoscimento dello status di economia di mercato, che proprio, insomma, in quest'anno ha un elemento, una data fondamentale, e non a caso si sono intensificati gli investimenti esteri di aziende cinesi, non solo sul calcio, ma in particolare sul calcio, perché il calcio permette chiaramente una sorta di accelerazione di questo processo, no? Di accreditamento in Occidente cosa che hanno fatto prima i russi, poi gli sceicchi con il Paris Saint-Germain e City, ora è la volta dei cinesi, ed è una battaglia industriale che, stai bene, insomma, ha ben altro valore. Ma anche il calcio fa parte delle leve che il governo cinese sta utilizzando per come dire, vincere questa battaglia, che ha visto per esempio di recente il Parlamento europeo dichiararsi contro questa possibilità, cioè contro che contro la possibilità che la Cina sia riconosciuta in automatico lo Stato come economia di mercato. Sì, soft power è teoria americana, dei politologi americani, vuol dire semplicemente che tu hai il hard power, il potere militare e il potere, diciamo, economico. Il potere più soft è quello che utilizza per esempio Hollywood per diffondere la cultura americana, le mode, le tendenze, la cultura in senso anche come cultura, diciamo, delle acquisti e degli elementi di fruizione culturale per imporre un potere, un modello economico. Questa è la teoria del soft power. Non a caso, proprio 30 secondi, Wanda, che è l'altra grande regista, no, di queste operazioni, è questa multinazionale di Panjili che ha comprato il 20% dell'Atletico Madrid, è diventato sponsor della FIFA fino al 2030, ha acquistato Intron, quindi chi detiene i diritti di intermediazione, ed ha comprato una parte essenziale degli studios americani, ed ha un progetto per creare i più grandi studios cinematografici al mondo. E quindi, diciamo, sempre più questo concetto di business legato al calcio come forma di entertainment, che vede protagonisti, insomma, di questa rivoluzione industriale applicata al calcio, da un lato gli Stati Uniti, dall'altro la Cina, con la vecchia Europa che ha i titoli, ha il blasone, ma ahimè non ha più le risorse economiche. Come nobili, come nobili di una volta, avevano i titoli blasone, ma poi le figlie devono sposarsi con la media borghesia del commercio. Allora, mi scrive un ascoltatore, e adesso forza Intel, e va bene, col Milan è più facile invece. A chi mi scrive, sembravi intelligente, ora ti scopro nero azzurro, sei un co. Guardi, resto un co, però non tifo nero azzurro, per cui né tifo rosso nero, non si preoccupi, quindi resto quello che sono, ma non tifo né una né l'altra. Grazie Marco Bellinazzi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.